accenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Per quanto riguarda l'importanza della Coppa Italia, è un obiettivo della stagione e quindi bisogna cercare di fare il massimo per arrivare in fondo. Oltretutto domani c'è lo stadio pieno, quindi credo che gli stimoli domani non mancheranno. Detto questo, quelli che fino a questo momento hanno giocato meno, direi sono in pochi, e domani non è un esame, assolutamente. Perché quelli che hanno giocato meno, anche se qualcuno ha giocato meno, da parte mia c'è sempre grande fiducia e quando vado in campo io sono in totale serenità e sono tranquillo. Domani devono solo fare una grande partita e soprattutto ottenere il passaggio del turno. Ho a disposizione Candreva, Felipe Anderson, Keita, Mauri, Klose e Georgievic. Quando la forziamo un attimino, come domenica scorsa, possiamo partire con quattro giocatori offensivi e già quella soluzione lì è una soluzione che ci permette di sfruttare ampiamente il nostro potenziale offensivo. È altrettanto vero che son contento e soddisfatto di poter fare delle scelte, anche perché è importantissimo chi comincia le partite, ma è altrettanto importante che chi poi è disponibile dalla panchina per poter cambiare eventualmente qualche partita che si può complicare. Parte un po' così sempre, un ambiente obiettivamente un po' particolare, non facile, un motivo, una volta c'è di mezzo un giocatore, una volta c'è di mezzo il presidente, ma c'è sempre di mezzo qualcuno. I primi due anni ho provato disperatamente di comunicare, poi ho capito che era difficile, quindi adesso provo a fare un discorso solo esclusivamente tecnico. Ciao a tutti, 800240024 è come sempre il vostro numero verde. Giorgio De Luca è il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione, tra poco arriva anche Pardo che è a vestirsi di nuovo a Pitti Uomo e poi ci facciamo anche raccontare qualcosa. Quelli che avete sentito e che penso avrete riconosciuto sono allegri alla vigilia di questa partita di Coppa Italia con il Verona. Si gioca stasera tutto esaurito allo Juventus Stadium e questa è qualcosa di inedito per la Coppa Italia. Tra l'altro Juventus e Verona che si riaffronteranno nel weekend di campionato e come se non bastasse ci si è messo anche Mandorlini in dichiarazioni della vigilia dicendo tra molte altre cose: con la Juventus qualcosa succede sempre, ma magari è solo casualità o sfortuna. Tanto non è un caso, ma è una scelta ormai inevitabile, quella di ieri della Lega Calcio con Tavecchio che ha detto dal prossimo anno la Godline Technology ce l'avremo anche noi. Era uscito questo comunicato, dalla prossima stagione si parte, ad annunciarlo appunto il presidente federale. Avremo la Godline Technology, adesso si tratterà di battere cassa presso i presidenti. Servirà qualcosa come 5-6 milioni di euro. In questo comunicato ci sono le parole di Tavecchio: la riunione ha inaugurato un percorso che porterà nei tempi preventivati all'applicazione della tecnologia del gol non gol nel nostro paese. Sono convinto che il suo utilizzo a partire dal prossimo campionato sia ineludibile. Sì, caro Tavecchio, è ineludibile, dobbiamo metterci quantomeno al passo degli altri. Poi ci sono mille argomenti di mercato, perché la più bella arriva da Genova, anzi due belle arrivano da Genova per la verità, perché Ferrero non ci fa mancare niente. Si ripete una sorta di caso Biabiani, no? con Muriel che va alla Sampdoria con la sua bella sciarpetta blu cerchiata, si presenta alle nuove visite alle visite mediche, fa dichiarazioni di amore per il club blu cerchiato, sono qui per aiutarli, morale, lo visitano e dicono no, questo qui è rotto, deve star fermo 45 giorni e poi dovrà recuperare cosa non semplice. Quindi cosa succede? La Sampdoria chiede lo sconto, Udinese risponde ciccia, 12 milioni, tornano a casa sia Muriel che Coda, l'affare salta. Matavecchio ovviamente adesso ha ben altre mire. Una è, senti bene, Pato. Ci può stare. Non lo so se ci può stare, ma stanno tornando tutti, eh. Pato tornato a giocare, poi ne parliamo. O tenterà di tornare a giocare Ronaldo negli Stati Uniti. Si dice che Trezeguet potrebbe arrivare al Modena. E poi c'è l'altro obiettivo, cioè quello di dichiarato in questi giorni di Samuel Eto'o. E c'è stata una telefonata, si sta parlando, no, con Eto'o, con i suoi procuratori, con l'Everton, eccetera. Però decisiva potrebbe essere la telefonata del signor Ferrero, che ha preso la cornetta e agli interlocutori ha detto: a Samuel, vieni a Genova che ti porto 30.000 persone all'aeroporto. Beh, traffico. Ed esce anche un Cassano, sì, ed esce Cassano che è ovviamente molto stanco, evidentemente ha dato tutto, e quindi Donadoni adesso fa entrare Pozzi. Una decisione di Donadoni dopo il pareggio. Sta dicendo qualcosa Cassano, Federico? Sì, non è soddisfatto. Tutti convocati. I giocatori sono fatti così, quando a volte magari non li togli, poi dice: però mister, pensavo che mi risparmiasse un po', e poi invece quando magari sanno che devono fare ancora un quarto d'ora, 20 minuti, ma era legato soprattutto al fatto che avevano appena pareggiato e quindi ci teneva ancora a essere della gara, ma è chiaro che devo fare anche delle valutazioni anche su altri giocatori, e quindi è giusto dare spazio anche agli altri. Dunque, l'arrabbiatura di Cassano per la sostituzione ieri, Fantantonio contro il Cagliari, una partita poi vinta dal Parma che ha passato il turno di Coppa Italia, era in uno di quei giorni in cui avrebbe mandato in porta anche me e Pardo, forse, Pardo di sicuro, ma non lo so. Che dici? Oh, vamo, Muriel! Dico, Pardo, dico che... È rotto! Non si può fare. Come va? Tutto bene? Molto bene. Pardo oggi in versione fashion, PT uomo. Ma c'è anche Ciccio Graziani che saluto e ringrazio. Ciao Ciccio! Ciao ragazzi, ben trovati! Descrivimi minuziosamente i tuoi occhiali di oggi, Ciccio. Oggi ce li ho Bordeaux abbinati al maglione. Oggi ho chiamato Bordeaux. Sei già andato? Sei già andato? Sono già andato io, amico mio, ha già dato a Pitti, dunque maglione abbinato all'occhiale, Ciccio Graziani. Carlo, dimmi. Volevo dire questo: quando un giocatore esce dal campo, sì, ed esce arrabbiato, non solo manca di rispetto all'allenatore per la scelta che fa, ma manca di rispetto soprattutto al compagno che entra. Certo, e allora dentro gli spogliatoi, siccome ci sono dei meccanismi ben particolari, uno bisognerebbe dirgli a fine partita: Cocco, quando entro io non sbuffare, perché io quando tu giochi titolare sto zitto. Cassano, bisogna, questi sono giocatori che se giocavano ai miei tempi, se c'erano ai miei tempi questi tipi di atteggiamenti, venivano presi subito per l'orecchio immediatamente. Dillo a Pardo, dica me. Ricordatevi da che mondo è mondo, i grandi traguardi o i disastri nascono attraverso i comportamenti, l'educazione, il rispetto che c'è dentro gli spogliatoi di una squadra di calcio. Dove c'è armonia si può andare contro il mondo, dove ci sono i fighetti o i furbi si va da nessuna parte, anche se ci sono i campioni. Sì, no, posso dire una cosa, adesso non è per fare l'avvocato del difensore, il principio è giustissimo e sicuramente non è mai bello quando un giocatore si lamenta in maniera plateale. In generale io vedo più il rovescio della medaglia, cioè vedo un giocatore che viene spesso considerato in partenza in una società dove qualche problema economico di stipendi c'è, con una squadra che è ultima in classifica, che ci tiene. Ecco, questo mi sembra, non mi sembra uno che abbia staccato la spina mentalmente, poi sicuramente è sbagliata la reazione, non è che la critico, però credo che in generale sia una dimostrazione ulteriore del fatto che al di là del fatto che vedremo che succederà nel mercato nei prossimi 15 giorni, che Cassano vuole stare a Parma, sta bene a Parma e ancora si sente ampiamente parte di questo progetto. Così hai disinnescato il tormentone, no? Si riapre il tema Cassano, e Cassano dove va? E Pardo due punti. Il tema sarà sempre aperto, perché comunque, voglio dire, è il classico giocatore prêt-à-porter su una società che ha dei problemi economici in questo momento. È un ingaggio comunque importante per quella che è la dimensione del Parma, quindi qualsiasi squadra media o medio-grande che volesse fare questa scommessa, secondo me ci penserà fino all'ultimo giorno di mercato. Però io quello che vedo è l'atteggiamento mi sembra, ma non lo dico soltanto perché insomma, lo sapete, amico mio, cioè non è che non posso barare, però insomma l'ho anche visto recentemente, sicuramente non ha staccato la spina, credo che ieri abbia dimostrato, è ancora mentalmente parte di questo progetto e pensa solo a salvarsi. E ieri probabilmente questa reazione c'è stata, sbagliata, lo ripeto, ma comunque una reazione di uno che si sente coinvolto, non di uno che non gliene frega niente a farmi la doccia. Ecco, questo mi sembra, comunque può entrare anche lui nel gran valzer degli attaccanti che è di moda in questo gennaio. Ciccio Graziani, alla Roma chi regaliamo? Adebayor, Mario Gomez, si è parlato anche di Quagliarella, destro va via o rimane? Ciccio? Pronto Ciccio? È sparito Ciccio? Io? Chi regaliamo alla Roma? Ma allora, il fatto che secondo me destro alla Roma non ha fatto male, quindi, però è chiaro che c'è una... In questo momento sembra esserci una croce sopra, no? Nel senso che comunque poi le voci che sento in giro sono voci tutte molto interessanti. La voce di un attaccante alla Quagliarella, Adebayor, insomma sono tutte ipotesi interessanti, anche lo stesso Mario Gomez. Io ho un dubbio su Mario Gomez, perché comunque dubbi ce ne sono diversi su Mario Gomez. Una marea, però è chiaro che un giocatore che costava 15 milioni di euro 20 mesi fa, oggi lo prendi gratis, insomma può essere anche stimolante provare a rimetterlo a posto. A Firenze mi sembra una storia chiusa, quindi insomma non credo che ci siano margini, poi il calcio spesso smentisce se stesso, però insomma mi sembra abbastanza finito questo tipo di idillio, che praticamente non c'è mai stato, anche con mille problemi fisici. Allora chiediamo, se è tornato Ciccio Graziani, gli chiediamo che attaccante regaliamo alla Roma, ammesso che destro vada via. Ci vuole molto probabilmente un giocatore con caratteristiche diverse da destro, credo più un giocatore con le caratteristiche, non Mario Gomez, ma con quelle caratteristiche, le caratteristiche di uno come Klose, un giocatore d'area di rigore che ti faccia salire la squadra, che ti faccia più punto di riferimento, perché di esterni la Roma ne ha fin troppi. Quindi e poi c'è da tenere conto di una cosa, Carlo, se da via destro è per realizzare anche dal punto di vista finanziario, perché destro oggi lo prendi solo se lo paghi, non ci sono cambi o scambi in vista, costa 20 appunto, la valutazione è quella in comodo rate, come si diceva una volta, no? Quando ero bambino mi dicevano enciclopedie e varie, anche adesso immagino, varie altre televisioni in comodo rate, ecco, mi sembra che stiamo magari lo paghi in comodo rate, ma lo paghi, non ci sono dubbi. È chiaro che non è un tipo di cosa che si può fare con scambio di giocatori. La Roma deve scegliersi poi l'attaccante. Lì c'è sempre un po' il dilemma Totti, nel senso che insomma l'abbiamo celebrato in questi giorni, lo celebriamo, un giocatore incredibile, ma c'è sempre questo elemento qui. Cioè, perché la Roma non ha cercato Mandžukić per dirti, ha cercato i Turpe quest'estate, perché ha cercato negli anni continuamente giocatori comunque con caratteristiche che non fossero in collisione con quelle di Totti. Questo è l'unico dubbio che ho, insomma. Poi chiaramente Totti certe volte lo vedi giocare, spesso diciamo lo vedi giocare e ti rispondi da solo. Sì, però anch'io sono d'accordo sul fatto che un attaccante d'area di rigore, sì, uno che la sbatte dentro, che però non fa fatica ad accomodarsi in panchina, cosa che destro non digerisce più. Ma tu Ciccio lo vedi per il Milan o lo vedi più per un'altra squadra? Perché adesso ha blindato Pazzini, però io a questa storia non ci credo tantissimo. No, ma non ci credo neanche io, perché non è che per un anno e mezzo un giocatore non è preso in considerazione neanche quando gli altri hanno la febbre 38 e poi fa una partita, fa gol, fa bella e diventa assolutamente incedibile. Al Milan sono bravissimi a fare calcio, non posso pensare che la strategia sia questa. Secondo me c'è qualcosa dietro e lo vedremo nei prossimi giorni. Adesso al Milan farebbe comodo, perché in questo momento il Milan gioca senza attaccanti, è l'unica squadra in Italia, forse in Europa, che gioca in un modo tale inusuale rispetto al passato, perché non ci dimentichiamo che il Milan ha sempre avuto tradizioni di grandissimi attaccanti davanti, ma adesso sì. È una squadra con questi falsi 7, falsi 9, falsi 11. Beh, alla fine Ciccio, domenica a Torino, sabato sera a Torino, di falso non c'era niente, alla fine non c'era neanche un attaccante in campo, sembrava l'ultima delle provinciali, peraltro scarse. Ma anche se tu partivi dall'inizio, l'unico era Pazzini, ma Pazzini, ripeto, non lo prendo in considerazione, giocano con Menezzo centravanti, che Menezzo è tutto meno che un centravanti, al di là che sta facendo bene, ci mancherebbe. Senti, la Juventus è l'unica delle grandi italiane che sta cercando un trequartista, vorrebbe giocare con un trequartista puro. La Juventus se no, sta cercando un trequartista per riuscire a cambiare pelle anche a livello internazionale, e anche se prende un giocatore che non può giocare in Champions League, però... comunque è un fatto secondo me di mentalità, è un fatto magari da poter sperimentare in campionato. Sappiamo che ci sono degli acquisti di giocatori che anche se non li puoi impiegare nella competizione europea comunque ti servono nella rotazione, quindi ti liberano delle soluzioni. L'ambizione di Allegri è stata quella di un calcio anche diverso rispetto a quello molto vincente in Italia del passato recente bianconero, quindi secondo me la Juve sta passando una cosa sana, una cosa nobile, mi sarebbe da dire, cioè sta cercando di migliorarsi e di cambiarsi, no? Anche a costo di mettere in discussione qualcuna delle certezze accumulate in questi anni comunque vincenti, almeno a livello di campionato. Sul Milan credo che Pazzini meriti una possibilità. Merita una possibilità, magari da un'altra parte. Lo pensavo prima, adesso lo dico a gran voce, cioè sì. mi sembra assurdo che io ho visto l'altra sera. L'ho visto anch'io, ma sai, se non, sì, però se non c'è feeling, non so se per questioni di ruolo, non so se per questioni di ruolo puro tra Inzaghi e Pazzini, cioè se è una questione tra virgolette personale, naturalmente dal punto di vista calcistico, o se è una questione proprio di mentalità. Menez falso 9, prima punta, è un adattamento. Ma sì, che ha fatto dal trofeo team a Reggio Emilia proprio contro Sassuolo e Juve all'inizio della stagione perché era in emergenza. Ma no, era una soluzione B, era un piano B. Adesso l'attaccante ce l'hai, non si chiama Torres, ma si chiama Pazzini, e tagli una possibilità. Io da questo punto di vista non ho più molti dubbi. Sì, almeno sul fatto che debba provarci, poi magari fa tre partite infattibili. Certo, poi si torna indietro, però il tempo di cambiare, il tempo di cambiare adesso, quindi se hanno deciso di cambiare Pazzini non la vita è adesso. La vita è adesso. Grande? Adesso è grande? Non ricordo, okay. Dai. Non farmi domande difficili. Ma vita è albergo della terra, in una stanza, in una storia, va bene. Più leggeri e cieli smarginati, anche forse un po' barocche queste. Ti faccio cantare dopo, intanto faccio fare un'ultima cantata a Ciccio Graziani sul fatto che adesso siamo tranquilli, l'anno prossimo Ciccio togliamo l'elmetto perché arriva la Goal Line Technology, quindi sì. Non ci saranno più palloni stravaganti e meno male Carlo, perché noi siamo andati avanti anche il giorno dopo con i giornali, con le televisioni, con i chiacchiericci, addirittura a giudicare il gol della Roma a Udine. Ma sì. Ragazzi, il giorno dopo leggi gol, non è gol, ma adesso toglieremo di mezzo tante belle cose, soprattutto togliamo la possibilità agli arbitri di influire negativamente a volte sul risultato della partita in campo. Questa è una cosa importantissima, gli togliamo delle responsabilità, per fortuna. Grazie Ciccio! Un abbraccio ciao. A tutti, ciao! Ciao, un abbraccio! Ciao. Senti, dimmi com'è, Pier, com'è lì a Pitti? Geolocalizzati, fammi un rapido riassunto. L'anno scorso eravamo lì insieme, quest'anno mi ci hanno mandato. Sono in via Pier Capponi a Firenze, ma per ora diciamo che avendo partecipato a questo trasferto anche mia moglie, abbiamo deciso di mangiare e quindi siamo stati a Coverciano in un posto che amiamo abbastanza. Abbiamo mangiato però il giusto, tra pochi minuti saremo lì di fronte a... E poi ti potrò raccontare appunto le nuove tendenze, no? Se va il tweed quest'anno, se va lo smanicato, il doppio petto, io non ci penso niente, però insomma dopo me lo dici. Dopo me lo dici. Intanto c'è il perfido mamma mia, c'è il perfido De Luca che ha chiamato Giosquillo sul look dei calciatori, che ha colpito molto la miss di Lionel Messi al pallone d'oro, improponibile, ma com'era improponibile quella dell'anno scorso. Poi ci sono anche Antonioni e Toni che commentano l'argomento. Allora sentiamo questo, poi c'è la borsa e poi torniamo con Pardo con un argomento molto più serio, per la verità, è con un gigantesco ospite che stiamo aspettando, spero che arrivi. A dopo. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo nella settimana di Pitti Uomo, una settimana dedicata alla moda maschile. Hai visto come erano vestiti i finalisti del Pallone d'Oro, soprattutto il vincitore Cristiano Ronaldo e il secondo arrivato Messi? Ma guarda, sì, è proprio, rappresentano un po' gli estremi, no, della moda oggi. Uno assolutamente impeccabile, devo dire che Ronaldo, a parte la sua bellezza, è da wow, comunque veramente da Oscar. Questo blu gli stava veramente bene, il blu è il nuovo nero, quindi forse ha azzeccato la stagione, ma ha anche azzeccato il vestito. Pare che invece non sia andato così a Nesti, che sui vestiti insomma abbia da prendere un po' di lezione di stile. Dopo il qua peraltro dell'anno scorso, che invece mi piaceva dal punto di vista appunto dell'uomo che osa, che insomma fa qualcosa di diverso, quest'anno forse con il viola proprio ha rappresentato la sua stagione, un po' sottotono, un po' sbagliata, e credo che non gli stesse neanche bene, cioè il viola va portato probabilmente per abiti e per circostanze sicuramente diverse. Anche se devo dire la moda uomo si sta ispirando agli sportivi, per cui vediamo proprio tutto quello che è lo sportivo in modo elegante, e invece lo sportivo si veste in modo elegante soprattutto a certe cerimonie. In Italia resta il Milan, il tuo Milan, la squadra più elegante? È sempre, sempre chic, elegante, dentro e fuori, scusatemi, permettetemi di dirlo. Tutti convocati. Ecco che torniamo. Pierluigi, ci sei? Adesso arriva. Intanto, come dicevo prima, c'è un ospite gigantesco per un tema gigantesco, certamente più grande di noi, del calcio, di questa trasmissione. Lilian Thuram, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e grazie. Senti, hai appena scritto un libro che ha come titolo Per l'uguaglianza. A Parigi in questi giorni non c'è uguaglianza, sono i giorni della disuguaglianza e della paura. No, però io credo che a Parigi in questo momento c'è l'uguaglianza, c'è il fatto di voler vivere insieme. Io credo che sì, in strada c'era più di 4 milioni di persone, vuol dire che abbiamo capito che bisogna capire il nostro modo di fare. Pierluigi Pardo, eccolo qua. Pierluigi. Eccoci qua. No, beh, il tema è serissimo, devo dire che ho sentito di Grazia Liliana in questi giorni e devo dire che come sempre si conferma una delle voci meno banali, no? Uno di quelli che non fanno mai 0-0, che dice il suo punto di vista. È chiaro che ci sono tantissime responsabilità in questo momento, la responsabilità principale ovviamente è dei terroristi, non c'è discussione. Però io credo che tutti dobbiamo interrogarci sul... Cioè dobbiamo stare tutti molto attenti in questo momento. Se l'obiettivo, e personalmente per me l'obiettivo, è quello di una convivenza pacifica tra persone molto diverse, anche perché non ci sono alternative. Nel mondo di oggi è impossibile pensare di vivere come si vive dall'Ottocento, ognuno nel suo paese, con le frontiere chiuse. Bisogna inevitabilmente cercare una sorta di pacificazione, di rispetto fra culture diverse. Sì, però ammetterai, e giro l'interrogativo a Lilian, che pensare a Parigi, per noi, pensare in questi giorni a Parigi in stato di assedio, se non di guerra, fa un'impressione pazzesca, Lilian. Sì, però intanto sicuramente io credo che dobbiamo riflettere tutti sulle cose che è successo in Francia. Stamattina sono andato a visitare una scuola dicendo: guardate ragazzi, ci sono 3 francesi che hanno fatto questa cosa, non che sono venute da fuori. Dobbiamo capire che è molto difficile di fare, diciamo, un paese dove tutti si rispettano. Allora dobbiamo mettersi d'accordo su una cosa semplice, che tutti di noi siamo francesi. Perché tante volte ci sono persone che pensano che ci sono veri francesi e falsi francesi, o forse francese di tante generazioni e francese che non è arrivato dopo. Io credo che questo è sbaglio clamoroso dal principio. È per questo che spesso quando sono in Italia dico: guardate ragazzi, io credo che bisogna riconoscere rapidamente bambini nati in Italia, cresciuti in Italia, come degli italiani, perché sennò non esista di mettere fuori del gruppo delle persone. Sì, tu sai benissimo che viviamo in un paese in cui ancora qualcuno si interroga se Balotelli sia italiano o no, e questo lo sai bene, e no? Questo è un problema. problema, questo è veramente un problema. Però pensare a una, la Francia è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dell'integrazione, viene da domandarsi perché in Francia queste cose? E perché in Francia, lo sai, in Francia da tanti anni ci sono sempre delle parole dette dai politici, dette del giornalista, molte negative sulla religione musulmana. Qua dobbiamo, non siamo ipocriti, e questo io credo, da 2001 ci sono tante persone che fanno un paragone fra terroristi e musulmani. E io credo che stiamo creando dentro la nostra società due gruppi, i gruppi siamo noi e sono loro. Sì. E io credo che questo è il pericolo, e quando tu stai creando un gruppo sono loro, e queste loro pensano di essere, diciamo, malamato. E dentro questo gruppo ci sono delle persone che sono, diciamo, in difficoltà, che sono violente, che sono fragili. Allora queste persone possono incontrare delle persone sulla strada che possono condizionarlo a fare delle cose molto negative, come abbiamo visto a Parigi l'altra volta. Per questo che dobbiamo veramente lavorare tutti insieme per sviluppare quest'idea che facciamo parte del stesso gruppo, e prima di tutto bisogna rispettare gli altri. Viviano, ma 17 anni dopo quel trionfo del 98 in Italia era passata giustamente, insomma, l'idea che quella squadra avesse avuto un ruolo sociale enorme, perché era una squadra che rappresentava la grande Francia, quindi la Francia ovviamente anche con tutta una serie di contaminazioni e di un melting pot culturale eccezionale. Ecco, 17 anni dopo che cosa rimane di quella squadra? E voi che stavate vincendo quel mondiale vi rendevate conto di tutto questo, dell'importanza sociale di questo di quell'impresa lì? Ascolta, dipende dai giocatori, perché ci sono giocatori che non si rendono conto. Io devo dire la verità che io mi sono reso conto. Se oggi faccio un lavoro con la fondazione che ho creato, io lo so che ho dovuto anche a questa vittoria. E io credo che la società francese è stato un bene questa vittoria. Io credo che adesso non bisogna sbagliarsi. Ci sono meno razzisti adesso che prima. Io credo che bisogna ripetere sempre questo concetto, perché tante volte le persone pensano che le cose stanno peggiorando. Io credo che il discorso politico non sono all'altezza della situazione, perché quando tu hai una società dove ci sono problemi economici, io credo che il discorso politico deve essere molto molto bravo, perché durante questi periodi poi creare problemi dentro la società, perché già ci sono gente che non hanno lavoro, e se tu cominci a dire guardate ragazzi sono colpa di loro, alla fine le persone cadono dentro questa trappola. Questo è fondamentale. Siamo in un momento di debolezza totale dal punto di vista economico, e nei momenti di debolezza totale dal punto di vista economico la mala politica può provocare dei danni clamorosi. Sicuramente, perché i politici non hanno, diciamo, la capacità, forza a trovare le risorse importanti. Allora è molto più facile dire che è colpa di altre persone. Certo, certo. Un'ultima cosa, Pierluigi, secondo te lo sport cosa può fare? Poi la giriamo ovviamente alle Lilian Thuram, ma secondo te cosa può fare? Cosa deve fare? Lo sport può fare molto, ma in generale io sono d'accordo con quello che dice Lilian, cioè in un momento come questo, di fondo, per le convenienze politiche si vedono due comportamenti completamente opposti: il comportamento di chi continua a credere nell'ipotesi di una società multietnica, di tolleranza, con persone che vivono insieme, e persone, invece, gruppi politici che cavalcano quello che di terribile è successo in questi giorni per convenienza elettorale. Sì. Io sono nella prima parte, cioè io penso, soprattutto penso che non abbiamo alternative, cioè se tu mi chiedi se ci fosse realmente la possibilità di vivere come nell'Ottocento e ognuno vive nella sua città, a parte non mi piacerebbe in assoluto, ma queste cose non c'è, quindi è inevitabile dover trovare una convivenza pacifica e dover cercare nei limiti del possibile di eliminare, premesso che sto qui a parlare di terroristi, quindi è la cosa fondamentale della repressione, ci mancherebbe altro, però voglio dire Quello che mi fa paura in questo momento è che tutto questo inneschi una spirale di odio, di vendetta nei confronti magari di islamici moderati, fascistici, certo, vivono tranquillamente, certo. E di contro invece che anche al contrario, cioè è il noi contro loro, secondo me, che il che pericolo, il rischio da evitare, il rischio da evitare in assoluto. Per ma è chiaro, si divide in persone per bene, persone non per bene, ce ne sono chiaramente tutte le religioni, e è chiaro che in questo momento esiste purtroppo un gruppo organizzato e pericoloso che risponde a certe logiche, che sta dichiarando guerra all'Occidente. Questo è indiscutibile, ma credo che sia impossibile purtroppo controllare tutto, controllare ogni stazione, ogni posto. Sia molto più importante creare politicamente, con dei segnali concreti, una convivenza molto forte da questo punto di vista, questo, che sia rispettosa di tutte le etnie, di tutte le religioni. E in questo Linian, lo sport cosa può fare? Andare allo stadio a cantare una marsigliese, dimostrare, tanto, manifestare, cosa può fare? Lo sport secondo me fa già tanto, perché quando tu guardi il calcio, per esempio, spesso dentro una squadra ci sono giocatori di religioni diverse, di colore diverso. Già questo è un esempio molto positivo. E dopo io credo che il calcio deve superare la paura che qualche volta ha di entrare dentro il discorso politico. Io credo che i giocatori più importanti, gli allenatori più importanti, devono fare passare dei messaggi importanti alla società, alla tifoseria. E io credo che se un giocatore importante comincia a dire: guardate ragazzi, non cadiamo dentro la trappola, contro la violenza bisogna dare immagine, intelligenza. Io credo che questo, dire ai giovani: guardate, non cadiamo dentro la violenza, perché alla fine la violenza è una cosa male per tutti. Grazie Liliano, grazie davvero, buon lavoro. Grazie. Ascolta, grazie mille. Grazie davvero a Liliano Thuram. Ci fermiamo per il traffico, caro Pierluigi Pardo. Tutti convocati. Diversi messaggi, strano. Lori da Milano: Thuram parla come quando usciva, palla al piede, a testa alta, grande uomo. Oppure diversi messaggi che sono questi, che poi è lo stesso, però ha mandato diverse volte: Thuram, monsieur le prochain président. Ascoltatori, Pier. Sì, io è un caso la moviola, Ricordi che stavamo al telefono con Ciccio Graziani, ecco. Cosa? Eccoci. Ma come? Carrambata, ma vi siete ritrovati? Ci siamo ritrovati perché volevate farmi uno scherzo, no? Volevate farmi uno scherzo? Ah, capito. Sì, volevamo farmi uno scherzo. Capito. Adesso che fate? Adesso siamo qui che facciamo due chiacchiere con dei nostri amici che fanno delle cose, delle scarpe meravigliose, cose eccezionali. Un giorno, caro Carlo, ti porteremo. Grazie Ciccio, portami. Pardo non mi porta mai da nessuna parte. No, ma adesso ci penso io, tu stai vicino a me che ti faccio diventare un grande. Grazie Ciccio Graziani. Ciao. Pier. Eccolo, sì. Confermi. No, caso da moviola. Caso da moviola, classico. Perché avevo capito che era venuto ieri, invece sta qui. Infatti, sì. Allora, dov'è l'errore? Chiama Cesari. Chiama subito, per forza, cioè bisogna scoprire questa cosa. C'è anche Massimo Caputi qui, sono esclusive radiofoniche da qualche parte. Parter de Roi. Hai esclusive radiofoniche, Massimo? No. Ma c'è un ascoltatore, andiamo... Sì, Andrea da Novara, buongiorno. Andrea da Novara, poi andiamo a Giorgio Caputi. Sì. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Due cose veloci che volevo fare, due osservazioni sul Milan. Sì. La prima è sull'allenatore, che mi sembra chiaramente non ha l'altezza, cioè è un allenatore che non ha fatto esperienza gavetta, come si suol dire, nelle serie inferiori, e non ha dimostrato secondo me determinate cose, e sta facendo esperimenti in una società dove non li puoi fare a certi livelli, prima cosa. Seconda cosa sono i giocatori, che secondo me ci sono giocatori che mentalmente non sono adatti per giocare nel Milan, o anche a livello di gioco di squadra. Vedi El Shaarawy, vedi anche lo stesso Menez, che comunque è un po' è un anarchico. Ho capito, però molto livido, è difficile criticare Menez in questa stagione. Cioè, mi sembra francamente di tre piste il migliore del Milan, il migliore acquisto stagionale. Sì, che assolutamente. Sta... Anche però la prima cosa, poi lascio. Sì, certo. Lascio la risposta, non so se a Pardo o Massimo Caputi, chi risponde? No, Massimo adesso te lo passo. No, il Milan sicuramente queste cose sono vere, ma io insomma credo che la partita dell'altro giorno e il bilancio che si può fare a metà stagione chiami per una... Allora, c'è stato un fallimento davanti, è stato quello di Torres, che non va dimenticato. Era una scommessa, chiaramente... le squadre italiane, tranne rarissime eccezioni, purtroppo possono arrivare al massimo a fare delle scommesse su giocatori di quel livello lì, sì. Nel senso che Cristiano Ronaldo non riusciamo a prenderlo, riusciamo a prendere il grande campione che si è un po' perso sperando di rigenerarlo. Nel caso del Milan non è successo. Però scusa Pierluigi, sulla osservazione dell'ascoltatore, il primo punto già si sapeva, cioè che Inzaghi non avesse esperienza, lo sapevano sì, tutti, no? E l'avevamo detto. Il secondo punto è che fa con i giocatori che ha e anzi è stato detto che la forza, il credito di Inzaghi era stato proprio quello di aver, a differenza dei suoi predecessori, coagulato tutte le componenti. Però i numeri di meglio di lui ad oggi. Sì, con la squadra presidente Galliani contro. Sì, appunto, io ti dico che secondo me, insomma, Seedorf sicuramente non è stato mandato via per i risultati, ma è stato mandato via perché non c'era feeling. Ma legittimamente, nel senso che, voglio dire, se una società non apprezza i modi o non vede una prospettiva al di là della contingenza o il punto in più o il punto in meno, ci sta che possa liberarsi dall'allenatore e scegliere un altro. Inzaghi è stato chiamato ovviamente con una luna di miele che all'inizio si è sentita, secondo me, e oggi a metà stagione la situazione è così. Il Milan ha problemi strutturali, non mi sembra che Inzaghi li abbia risolti. Poi ci sono prestazioni tristi come quella di Torino dell'altro giorno, prestazioni un pochino più lusinghiere. Inzaghi avrebbe anche bisogno di tempo. Io penso che possa diventare un buon allenatore, cioè non lo posso escludere. Credo che sia un grande uomo di calcio, una persona intelligente, potrà far bene. Ci vuole pazienza, banalmente ci vuole pazienza. Insomma, non è una squadra. Sì, è partito dall'alto, ma come aveva fatto Mancini, no? Sì, ne parlavamo ieri. Semmai, guarda, quello che è successo, secondo me, è che il Milan è partito abbastanza bene e poi non c'è stata una crescita. Ecco, è mancato questo. Un po' lo stesso discorso dell'Inter di Mazzarri. Pure l'Inter di Mazzarri all'inizio delle prime 5-6 partite, a parte la sconfitta col Cagliari, dava la sensazione di poter crescere e poi c'è stata una fase di involuzione e lì c'è stato un esodero e adesso con Mancini si comincia a rintravedere la luce. E il Milan di Inzaghi aveva cominciato bene le prime due partite, ha fatto benino all'inizio e poi mi sembra che sia un continuo stop and go, qualche esatto, positiva. Esatto, grande però, discontinuità. Insomma, non è finita, io vi dico, Pazzini l'altro giorno e anche Cerci, che ha giocato una buona partita, sì. Qualche speranza secondo me la autorizza. Sì. Leonardo, provincia di Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io intervenivo, parlo un attimo per parlare di questo calciomercato che per ora impazza un po' dappertutto. Sì. Sulla questione, intanto sulla querela di Pogba, ma io ricordo che lui ha rinnovato fino al 2019 un contratto. Sì, certo, ha rinnovato per poter magari poi essere ceduto. Questo, cioè, il gioco è questo, ed è evidente, no? I giocatori che rinnovano non è che siano blindati lì fino alla data di scadenza, sappiamo bene com'è il gioco, no? No, voglio dire che la Juventus comunque ha una buona forza in questo senso, può anche decidere di trattenerlo volendo. E poi vedrei perché non potrebbe riprendere Osvaldo alla Juve, visto che l'Inter lo ha messo fuori in rosa. Io lo vedrei bene. Io non tanto, mi sembra che Osvaldo abbia dato alla Juventus, no, Pier? A me sembra che abbia dato e sul discorso di Pogba mi sembra che sia, comunque vada, sarà un successo, nel senso che sì. Io non so se la Juve ha la forza di trattenerlo a fronte di quelle 3-4 società che possono pagare o anche possiamo dire la volontà, perché se arriva uno con 90 puoi dire anche lo lascio andare, lo lascio 70, andare e faccio altre cose. Arriva pure uno con 70, puoi decidere che ne prendi 3 da 25 sì. E sei felice. Guarda, cioè, io credo che Pogba sia un giocatore pazzesco e la Juve ha fatto il colpo, non so se del secolo o del decennio, fate voi, insomma, sicuramente ha fatto un colpo mostruoso, ha fatto benissimo a fargli rinnovare il contratto, adesso ha il coltello dalla parte del manico. Ma certo, è chiaro che dal punto di vista del tifoso la speranza è che uno come Pogba si abita alla Juve, no? Perché magari si fa 10 anni a questi livelli, 15 anni a questi livelli, però se anche questa cosa non dovesse succedere, e tra qualche mese, come leggevo oggi sui giornali, dovesse partire, partirebbe a una cifra talmente alta che sarebbe comunque un trionfo. Veramente. Un altro caso Zidane, no? Come andrà a finire, se no, un trionfo. Guarda che poi alla fine i campionati si vincono comprando bene, ma anche vendendo bene. Ma sicuro, quindi, soprattutto dalle nostre parti. Oggi io condivido questa politica. Un segno circolare da 60, passatelo voi presto. È una cifra iperbolica. Sì, poi puoi anche fare un altro ragionamento, e cioè adesso vale X, tra me lo tengo ancora un anno, potrebbe valere X al quadrato nel caso in cui dovesse ancora crescere, perché i margini di miglioramento, sinceramente i confini non si vedono in questo. I confini non si vedono, ma giocatore, secondo me, siccome i confini non si vedono, le offerte che arrivano oggi, cioè, se il campionato fosse finito oggi, i confini certo non si vedono, ma anche le offerte sono mostruose, sì, favorose, se qualcuno decide di prenderlo, quindi non è che potrà mai valere 200 milioni. Secondo me siamo molto vicini oggi al punto massimo di valutazione di un giocatore incredibile. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Salutami tutti, tutta la compagnia di PTU, salutami tutti. Qua c'è il signor Graziani, che stai scegliendo? Graziani va sul mocassino, ti vedo uomo da mocassino, Graziani. È sul mocassino. No, come si chiama tecnicamente? Beatles, modello Beatles. Ah, modello Beatles, modello lo stivaletto Beatles, sì. Lo stivaletto con... È uguale a George Best, è bello come George Best. Ciao. Sì, mi dovrei fare io, vabbè, adesso ci ragionerò. Ciao. Dopo me lo dici, mai me lo dici che sei andato sul mocassino o sul modello George Best. Grazie Pierluigi Pardo. Vai. Daniele da Torino al volo, buongiorno. Buongiorno, io auspicherei un po' più di uso della tecnologia per altri aspetti, ad esempio il lunedì per sancire chi si butta per terra. Io sono tifoso del Torino, ieri sera il Caduri l'avrei sostituito per il modo proprio irritantissimo con cui si è buttato per terra non so quante volte, anche in area di rigore davanti all'arbitro, l'arbitro non l'ha nemmeno ammonito. Io tutti i lunedì sera Fischer ci fa vedere quelli che fanno i voli pindarici, non capisco perché non si possa sanzionare. Quindi lei userebbe la tecnologia, ma il giorno dopo? Anche il giorno dopo, no, anche il gol non gol certamente, ma guarda, mentre sul campo è un po' più difficile. Sì, però io credo che guardi Daniele, io credo che da quel punto di vista per la simulazione possa bastare in linea di massimo l'arbitro. Per quanto riguarda invece quella questione di geometria di cui tanto abbiamo parlato, l'arbitro, l'occhio umano in alcune situazioni non sono sufficienti. Dunque ben venga questa innovazione che arriverà. Come arriverà e tornerà tutti convocati dopo il GR 800240024 numero verde. Convocati. Non mi basta mai. Ilicic cerca Gomez alle spalle di Ogbonna, la palla per lui, il controllo di Gomez! È tornato Mario Gomez! 1-1 a 12 dalla fine. Non mi basta mai. Mario Gomez accompagna Joaquin. Mario Gomez in area di rigore. Mario Gomez! E trova il gol finalmente. Mario Gomez dopo 259 giorni, il 3-0 della Fiorentina. Non mi basta mai. Non so chi dire, spero tanto che sia Mario Gomez quel giocatore decisivo della partita. Tutto pronto, parte Mario Gomez, Mirante ha respinto il calcio di rigore di Mario Gomez. Mario Gomez, mi aspetto di più. Punto, dai, così la chiudiamo subito. Mi aspetto molto di più. Non mi basta mai. Quanto mi è mancato Alessandro Bonan in tutto questo tempo. Ciao Ale. Ciao, buongiorno, sono contento di essere convocato anch'io. Sì, conduttore del mio programma di riferimento, Calcio Mercato, l'originale, ma io voglio sapere che cosa stai scrivendo adesso, per prima cosa. cosa sta scrivendo, un sacco di... No, in realtà in questo momento sono parecchio indaffarato e quindi scrivo poco. Si scrive... Prossimo si romanzo criminale? Prossimo romanzo spero che sia un romanzo dove la psiche abbia una sua parte predominante. Poi se è un giallo, un nero, un verde, un rosso. Rosso, non ne facciamo una questione di colore. È poco importante, sì. Intanto oggi ho visto su Corriere della Sera incassato gli elogi di Aldo Grasso, calcio mercato originale, come antidoto alla barba della lavagna tecnica. Lo ringrazio, evidentemente insomma ha accolto l'originalità del programma, la sua differenza. Questo non vuol dire che calciomercato, almeno per quanto mi riguarda, è un programma migliore o peggiore di altri. È un programma diverso. Però che ha, insomma, almeno segue questa strada, ecco, della diversità. Sì. Senti, invece, abbiamo sentito prima Mario Gomez in procinto di lasciare la Fiorentina, dicono tutti, non piace più a nessuno, nemmeno alla cancelliera Merkel, forse nemmeno più al suo allenatore. Ma guarda, la storia del calcio è piena di misteri e il calciomercato è chiaro, di per sé un grande intrigo. Gomez è veramente il mistero nel mistero. Se noi consideriamo che questo è un calciatore che in Germania ha vinto praticamente tutto, perché ha vinto 3 volte la Bundesliga, una volta con lo Stoccarda, 2 volte col Bayern Monaco, poi col Bayern ha vinto anche la Champions League, 2 coppe di Germania, 2 supercoppe, è stato capocannoniere con 28 gol nel 2011, ha disputato 60 partite con 25 gol in nazionale e oggi è quello che vediamo cadere sul pallone ogni volta che si mette in moto. Dobbiamo pensare a un qualcosa di veramente molto misterioso e la Fiorentina è disperata perché non sa più come fare, gli ha dato diverse chance ma non riesce a produrre nulla questo ragazzo e soprattutto non ha neanche mercato ed ha uno stipendio altissimo. Non ha mercato anche in relazione a quello, al fatto che guadagna un sacco di soldi. Ma che si legge della Roma, no? Dici no. Io non credo che la Roma sia su Gomez, assolutamente. Invece, non credo. Invece la più bella degli ultimi giorni è questa. Ciao Ilaria, un po' che una palla a Matano, se ne ho messa, eh? Ho voluto unire due forze che sono simili, cinema, calcio, cultura, e questo è il sale della vita, forza Sampdoria, ne la faccio più. Sono contento di essere qua e dai media ho ricevuto tanti messaggi, tanti mostri di affetto da parte di tutti i tifosi lucerchiati e niente, sono molto contento di essere arrivato in questa squadra. Il mister mi ha parlato e mi ha fatto vedere che lui ci teneva a avermi qua in squadra e adesso non posso fare altro che dare tutto, che impegnarmi al massimo e ogni volta che scenderò in campo sicuramente lascerò il 100% di Muriel. Sì. Difficile dare tutto, ogni volta che scende in campo dare il 100% di Muriel quando uno deve star fermo 45 giorni. Cocciante una volta cantava vedersi un istante sopra un treno, salire su un altro e andare lontano oppure tornare a casa, Ale? Sì, è vero, ma insomma, qui siamo di fronte evidentemente ad un giocatore che ha nel fatto fisico la sua magagna, perché sì, tecnicamente Muriel è un giocatore eccezionale. Parlavo l'altro giorno con Cosmi e mi diceva che se avesse dovuto scegliere in quel momento tra Cuadrado e Muriel, lui li ha allenati entrambi a Lecce, avrebbe certamente puntato su Muriel, perché ha dei colpi eccezionali. Ha dei colpi eccezionali, ma ha un fisico fragile e forse anche una scarsa attitudine ad allenarci. Sì, sono ormai tanti anni che si dice che Muriel è un potenziale fenomeno, però quando passa così tanto tempo e il fenomeno rimane in potenza, qualche dubbio ti viene. Intanto il presidentissimo ha chiamato e tu a Samuel vieni a Genova che ti porto 30.000 persone all'aeroporto. Ferrero. Sì, ma non c'è nessuno che riesce a coniugare, come diceva lui, non solo la cultura, lo metterei da parte, ma certamente il cinema e il calcio, sì. Il cinema e il calcio sì, 30.000 persone, guarda se non sono 30.000 però poco ci manca. Vabbè, trovate quanti erano per Berghessio, cioè erano 15-10, sì. Fa due conti. Sì, no, poi ha in pugno in questo momento la città lo adora, lo segue e ci sono i risultati, e finché insomma il vento soffia lui fa andare la barca. Poi dopo bisogna vedere quando il vento smetterà di soffiare, certo, perché nel calcio è anche così, che cosa succede nei periodi di bonaccia. Ale, un'ultima cosa, questa è una possibilità, un'opportunità unica. Yo creo que el fútbol en Estados Unidos va creciendo muchísimo y esta oportunidad la vamos a agarrar. Hay muchísimos niños y niñas que juegan fútbol aquí, un proyecto muy importante también de academias de fútbol, y por supuesto, ¿no?, el Strikers, que va un equipo que tiene ya mucha historia. Y vamos a seguir haciendo y escribiendo la historia de los Strikers. Questo era Ronaldo, non Cristiano, che torna forse anche a giocare in Serie B americana con il Fort Lauderdale Strikers, che torna a giocare, non ci credo poi tanto, ha comprato delle quote di questo club, però potrebbe essere la vera stagione dei grandi ritorni. Dicono addirittura Pato alla Sampdoria, Trezeguet al Modena, ho letto da qualche parte che torna a giocare Morientes, se il Moro a 5 anni dal ritiro giocherà in qualche tipo di campionato regionale spagnolo. E poi sì, ma torna? Pare che torni anche Borg. Torna Borg? Con la sua donna di ci legno. No, ti ricordi quando Borg rientrò e fece quella. Sì, era meglio evitare. Sì, tristissimo. Ecco, sinceramente mi vengono in mente queste scene. Oppure quei pugili che risalgono sul ring imbolziti, appesantiti, e veramente disorientati, ancora prima di prendere un cazzotto sono già disorientati. Ecco, sono un po' queste figure, mi vengono in mente queste figure qua, e Ronaldo mi sembra un uomo disorientato che non sa che strada prendere dopo essere stato protagonista per diversi anni nel calcio. Grazie Alessandro Bonanni, ci vediamo grazie stasera a voi, ragazzi, alle 23. A presto. Sky Sport 1. Grazie, ciao, grazie, ciao. Ciao Ale. 800 24 00 24 è il numero verde vostro, la vostra voce a Radio 24. Luigi Recco, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Volevo dire due cose, una curiosità e una spiritosaggine, cioè legata al mercato. Io sono juventino da quando sono nato, cioè ho 50 anni, e dico una cosa: se davvero il Real Madrid o chi per esso offre 100 milioni di euro per Pogba, vado a Torino dare a prenderlo, soldi, vedere Cammello un attimo, ho capito, però vado io a Torino, lo porto io a Madrid da parte della Juve, mi rimborsano il viaggio, vitto, alloggio, ci vado io, guardi, perché qui la storia che c'ha il contratto che non si vende, 100 milioni sono 100 milioni, bagai, come si dice qua, ecco. Sì, e poi una curiosità che al di là di tutto, cioè solo una curiosità, non vuole essere niente di diciamo di... Prego, dica. Che guardando il calendario viene fuori che la Roma le ultime tre giornate le gioca senza muoversi da Roma. Le gioca senza muoversi da Roma perché c'ha il derby in mezzo, naturalmente. Perché c'ha il derby in mezzo a due giornate giocate in casa. Quindi è una curiosità, non voglio alzare polvere, è solo una curiosità. L'ha già fatto, Luigi, l'ha già fatto con la curiosità, la sua domanda, sì, la sua considerazione tre, maliziosa, però, Non erano le ultime tre, sì, anche alla Juve capita di giocare tre di fila a Torino, però, perché Luigi, c'ha il derby, no, capisci? A tutte le capito, squadre che però, hanno un derby. Guardi, io fossi la Roma sarei terrorizzato dall'idea di preferirei viaggiare per tutto il mondo piuttosto che avere il derby. Può essere uno svantaggio, quello sì. Può essere uno svantaggio, è uno svantaggio clamoroso. Clamoroso, ripeto, la mia è solo una curiosità. Sì, la sua è una curiosità che ci sta, è anche maliziosa la sua parte, però ripeto, io fossi Garcia, fossi nella Roma, eccetera, eccetera, me la farei sotto all'idea di magari di andarmi a giocare uno scudetto nel derby. Ma lei se l'immagina? Cioè, preferirei giocare le ultime tre in trasferta dove vuole, piuttosto che giocarmi, avere in mezzo a quelle tre partite, pur non viaggiando, pur rimanendo a casa mia, il derby. Alessandro, Genova, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti quanti. Mi ha un po' anticipato, volevo fare, sono sandoriano, volevo fare una domanda sul mercato della Sampdoria e un po' mi ha anticipato parlandomi di Muriel, parlandomi di Eto'o. Volevo chiedere se aveva notizie un pochettino più precise, proprio se arriverà veramente Muriel. Allora andiamo con ordine. Muriel è già tornato a casa insieme a Coda, quindi l'affare è saltato perché servivano, hanno visto che sarebbero voluti 45 giorni per rimetterlo in condizioni di cominciare a giocare, e poi lei si immagina prendere la preparazione, inserirsi in una squadra nuova eccetera eccetera eccetera, ballavano un paio di mesi. La Sampdoria ha detto fermi tutti perché non abbiamo l'anello al naso, quindi o ci fate uno sconto sul giocatore che tenga conto di tutte queste incognite o non se ne fa più niente. L'Udinese ha detto vabbè, amici come prima, Muriel può tornare a casa, e questo è un dato di fatto. Quanto al resto, a proposito, a Genova intanto sull'altra sponda è tornato per la terza volta Boriello, anche questa è una storia di mercato piuttosto divertente. Quanto invece alla Sampdoria, è rimbalzato il nome di Pato, che io credo, Alessandro, a qualcuno da quelle parti blu cerchiato faccia venire i brividi l'idea di Pato, no? Sì, è vero. E poi c'è questa pista. Lei cosa ne pensa di Eto'o, lei personalmente? Le piace a lei? Anche lui ormai è datato, ha dato il meglio, per cui viene qua, non so. Super, lei cosa ne pensa? Io penso che sia un super mega campionissimo, un giocatore di un'intelligenza clamorosa. No, io credo che non sarebbe un pacco, quantomeno ovviamente come soluzione estemporanea. Insomma, credo che sostituire Gabbiadini con il signor Samuel Eto'o, che comunque sta dimostrando ancora in Premier League di essere in condizione di essere ancora totalmente un giocatore di pallone, quella sarebbe una grande mossa, non solo mediatica, non solo pubblicitaria, ma sarebbe una gran bella mossa calcistica. Quindi è chiaro che se prendi Eto'o non è che gli fai un contratto di 3 anni, è un giocatore che, a parte che costa moltissimo, guadagna molti soldi, ha rinunciato peraltro a non so quanti, Giorgio De Luca aiutami, a quanti, ha svariati milioni di euro dal Brasile, 5 milioni di euro dal Santos, è corretto? Ha rinunciato a questa offerta Samuel Eto'o, vorrebbe rimanere in Europa, è interessato alla Sampdoria, è in uscita dall'Everton, quindi io credo che sarebbe una gran mossa questa per la Samp, sempre con le condizioni che abbiamo detto, cioè da qui a fine stagione. Luigi Napoli, buongiorno. Grazie per essere stato convocato. Naturalmente, oltre che ringraziarvi, devo assolutamente riconoscere il vostro livello culturale. Voi siete gli uomini di cultura, prima di giornalisti, soprattutto il dottor Pardo, al quale vorrei rivolgere una domanda. Se non è in linea, va bene, allora gliela passerà lei, ma potrebbe anche lei in alternativa rispondermi. Lei la butti lì e poi la gireremo. Ma io gradirei la risposta anche da lei, dica. Comunque lavorate nello stesso gruppo. Io vorrei dire a voi giornalisti, uomini di cultura, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Cosa provate? Ecco, questa è una domanda così molto leggera, molto soft, l'ho toccata pianissimo, è una piuma. Il campionato più taroccato. E pensate la quantità di spettatori, di personaggi. Secondo lei è tutto finto? Come? È tutto finto. No, è questo, non so, gli italiani che ogni sera, ogni domenica sera, a mezzanotte aspettano tutte le trasmissioni, quelli del lazzaretto di Sky che diffondono notizie, e così, e poi così su uno scenario taroccato. Finto. Si formano personaggi, miti, risposte, il Mazzoleni che va ad arbitrare Cagliari-Juventus, ma mi spieghi lei, non Nicchi perché non ce l'aveva la risposta, il Mazzoleni, che quale necessità di mandare Mazzoleni per Cagliari-Juve, mi dica lei. No, non lo saprei, bisogna per l'appunto chiedere a Nicchi, poi, ma sì, c'è stato, sono d'accordo. E poi qualcuno Luigi, seriamente, io ma con Pardo abbiamo fatto molto spesso questo discorso negli ultimi giorni, né a me né a lui, e in questo caso mi allineo con il mio compagno di banco, non sembra un campionato, questo fino a questo momento non sembra un campionato particolarmente condizionato. Togliamo l'episodio. Mi dispiace, No, togliamo l'episodio di allora, Allora andiamo un po' più indietro. Questa gente che è stata condannata per gli stessi motivi, per gli stessi fatti, e che oggi qualcuno vorrebbe addirittura recuperare con un perdono così, magari il povero Dostoevsky si dovrebbe sollevare dalle tombe e dire: ma che volete perdonare? Che cosa, quando il perdono non ha mai cancellato nessuna colpa? Lei si riferisce a un rapporto a riferimenti recentissimi, dove tutti quelli che hanno voluto vedere, hanno visto, hanno capito, hanno dichiarato la gravità delle decisione degli atteggiamenti presi anche dall'alto, il Nicchi che invita al silenzio perché le cose così devono andare, ma no. Vabbè, io naturalmente vorrei che tanti spettatori, tanti amanti di questo sport meraviglioso aprissero un po' gli occhi e magari Come dice lei, non lo vede taroccato, e allora è meglio chiudere e spegnere. È meglio chiudere e spegnere tutto se uno lo vede taroccato, perché se uno lo vede, se uno non. Io sono profondamente laico da questo punto di vista. Sono laico da questo punto di vista, cioè non ho grandi bandiere, non ho grandi simpatie, eccetera. Sempre moderato verso l'area napoletana. Le assicuro, domani glielo dimostro anche richiedendo il pensiero di Pardo da questo punto di vista come il mio. Io non vedo sinceramente fin qui un disegno per far vincere questo o quell'altra dietro a questo campionato. Lei deve rispettare dei protocolli. Non ho particolari protocolli da rispettare. Sono totalmente libero, e questo lo dichiaro pubblicamente. Si trova a commentare un campionato taroccato. Come mi sento? Mi sento come uno che non considera questo campionato taroccato e finiamo qui. Però che cosa vuole che le dica? Cioè, questo è il mio pensiero. Lei ha il suo, ognuno si tiene il proprio e lo difende. Quello che dico io è che se io fossi profondamente convinto del fatto che vado in gioielleria, un anello è di oro finto, io semplicemente me ne vado e non lo compro, cioè non è che sto lì a guardarlo, a girarlo, eccetera eccetera. Se sono convinto che un prodotto sia adulterato, io giro al largo e cambio hobby. Quindi questo è quello che penso io, o che farei io. Francesco, Padova. Buongiorno. Tutto taroccato? Più esattamente Cittadella. Da Cittadella, tutto taroccato? Esatto. Anche secondo lei? No, tutto finto? No. Oro fasullo? Assolutamente no. Diciamo che ci possono essere talvolta degli arbitraggi che sono discutibili, ma fa parte del gioco. Ma vede un disegno oscuro dietro questo campionato in particolare? No, il disegno oscuro non c'è, è un campionato triste rispetto agli altri campionati, ma inevitabilmente non ci sono soldi da spendere. Vedi l'esempio Pogba, 100 milioni, e se glieli danno è una sciocchezza non venderlo, brutto da dire per me che sono anche juventino, però dove vuoi andare se non spendi soldi? E dopo c'è anche da dire che il Paris Saint-Germain è da anni che investe soldi. È quarto in classifica, quarto in classifica il Paris Saint-Germain quest'anno. Dovrebbe essere primo, arrivare in finale di Champions, dovrebbe fare determinate cose. Insomma, arrivare in finale di Champions è tanta roba, perché è più forte il Paris Saint-Germain, ci sono senz'altro il Real Madrid e il Bayern di Monaco, che di soldi ne spendono anche di più. Quindi. Esatto, però insomma il nostro purtroppo è diventato un campionato minore. Ma la mia domanda era un'altra, ed era più un pettegolezzo. Dica. Tifando io Cittadella da 8 anni, sabato c'è Cittadella-Modena. Sì. Che possibilità ci sono di vedere Trezeguet in campo? In due giorni? Secondo me pochine, quasi nessuna, perché anche ammesso che arrivi, cosa sulla quale mi riservo i miei dubbi, non credo poi ci sarebbero i tempi e le modalità per vederlo in campo, quindi dubito del fatto che lei potrà vedere David Trezeguet con la maglia giallo canarino contro il Cittadella nel prossimo weekend. Giorgio da Genova, mi aspetti lì, non scappi. 800 24 00 24, borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Sto divertendo molto a parlare con gli ascoltatori. Roberto da Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Tutto traccato? No, secondo me no. È solo che in Italia, se c'è prima una squadra, se è prima in classifica una determinata squadra, è ovvio che è taroccata, è sempre così. Cioè, se non è primo il Napoli ma è prima la Juventus, è taroccata. Se non è prima la Roma ma è prima la Juventus, è taroccata. Cioè, succede così. Solo che negli altri paesi europei, dove ci sono squadre che dominano, sì, tipo il Bayern in Germania, che ha già rivinto il campionato in un campionato, diciamo. Esatto. No, ma che, poi anche su questo, mi scusi, Roberto, è il caso di intendersi. Piangiamo sul nostro depressissimo campionato che non ha quattrini, non ha campioni, non ha squadre di livello, eccetera, eccetera, eccetera. Però, ma anche se, quando avevamo i quattrini, ascolti, no, però la stessa musica, sì, era la stessa musica, però almeno c'erano squadre più forti. Almeno c'erano squadre più forti. Però se era prima una determinata squadra, la si faceva retrocedere. Non facciamo discorsi politici. Quello che dicevo io. Una cosa, faccia dire solo una cosa. Dica. Sono amante delle statistiche, vado a vedere un po' di cose. Ho preso negli ultimi 40 anni, dal 73 a oggi, sa quante volte è arrivata prima la Juventus? 19. Sa quante volte è arrivata seconda la Juventus? 11. Però lei ha mai sentito lamentarsi per queste 11 volte che è arrivata seconda che le hanno rubato i campionati? Non credo. Cioè, purtroppo nel calcio si vince e si perde. A quanto mi risulta, la Juve quando non ha vinto non aveva grandi squadre, ma quando ha vinto ha sempre avuto grandi campioni. Sì. Cioè, io poi capisco che dà fastidio una squadra più forte. Ma scusi la domanda maliziosa, ma lei ha incluso nel conto anche quelli famosi? Sì, anche quelli famosi, ovvio. Perché quelli non sono stati rubati, l'ha detto una sentenza di Napoli, quindi non tocchiamo questo tasto, perché sennò, oddio, voi che fate questa trasmissione la dovreste toccare. No, vabbè, ma è dal 2006 che lo tocchiamo, Roberto, ci siamo anche un po' consumati, siamo anche un po' consumati le dita. No, ma quello che dico io, ma c'è una sentenza che ha detto che il campionato non era truccato, cioè. Vabbè, c'è una sentenza che secondo lei dice che il campionato era stato truccato. Secondo me un dirigente di una società che telefona agli arbitri lo rende nullo un campionato. Ripeto, la mia posizione dal 2006 a oggi è che non avrei quasi più voglia di ripetere, però il campionato è nullo. Quindi, perché c'è una collusione tra avvocato e giudice, tra amministratore ed amministrato, una collusione che è, dal mio punto di vista, in re ipsa illecita. Dunque, non starei a rivangare tutto questo passato, rimango su della mia idea, e cioè che dietro a questo campionato io non vedo un disegno oscuro. Secondo me non è tutto taroccato, ci sono stati degli anni in cui i tarocchi sono venuti fuori, così come per magia. Luigi Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Innanzitutto complimenti a voi e a tutto lo staff. Prima di intervenire su questa questione del calcio taroccato. Sì. Diciamo taroccato, che non taroccato. Vabbè, diciamo, questo è l'argomento che si sta parlando in questi istanti. Diciamo che io ho 26 anni, non ho una grandissima esperienza a livello calcistico, però diciamo che da quando lo seguo un po' di pensieri di calcio taroccato c'erano. Io sono di Napoli, quindi vi lascio immaginare, per chi tifo, non faccio differenza di Juventus, non faccio differenza di Napoli e non faccio differenza tra altre squadre. Solo che a volte si vedono delle cose veramente che vi fanno pensare che il calcio è troppo. Io vi do la mia, ovviamente prima ho sentito dire che avevi dato un consiglio ad una persona che quando vede il calcio taroccato è meglio lasciare stare e seguire altro. Secondo me sì. Cioè, se io non credo, se io non compro il latte scaduto al supermercato. Esattamente. No? E io su questo ti do ragione. Visto che vedendo alcune cose, io credo che il 90% del calcio, almeno parlo quello là italiano perché io sono quello là italiano, è tutto un business sul calcio scommesso. Questo è il mio pensiero. Sul? calcio scommesse, tutto riguarda ovviamente un business economico. Questo, per come la penso io, quindi sì, io sì, ma... sì, quindi io penso che quando una cosa non va, io 26 anni ho lasciato andare a calcio, faccio esempio, io la domenica preferisco prendere mia moglie e mia figlia e andarmene in centro commerciale, vedere un film la sera, ho lasciato stare il calcio. Che non è una brutta idea, no. Che non è una brutta, non cioè, è perché una se brutta la... idea, no, perché ma che, perché se la pensa così, cose che magari... Infatti, io la penso così, ho lasciato stare il calcio. Io non voglio credere che sia tutto taroccato per fini di lucro da scommettitori. Poi è chiaro che ognuno ha le idee o i sospetti che non che merita, ma che ha, che si tiene. Quindi fa benissimo se crede che il calcio italiano sia mosso dai burattinai delle scommesse, che poi non capisco perché solo quello italiano, invece quello spagnolo, quello, tutti gli altri invece no, perché lì è più difficile entrare. Questo è un concetto che non mi è chiaro. Anche lì girano soldi e ne girano molti di più di quanto non ce ne siano da queste parti. Anche lì ci sono mille e una polemica, ma che si spengono, che bruciano in un attimo. Ce ne sono state diverse anche nell'ultimo weekend, no? Barcellona, Atletico Madrid, ci sono state un sacco di polemiche. In Francia ne parlavamo ieri, gol di petto di Ibrahimovic con il Saint-Étienne, la palla è entrata o non è entrata? Casino generale, partita sospesa, tafferugli, cioè non è che dalle altre parti viaggino su binari d'oro, semplicemente si spegne tutto come un cerino. Giorgio da Genova, grazie. Grazie, ha ragione, cioè, ho fatto aspettare troppo, mi scusi. Giorgio da Genova. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Tutto taroccato. Calcio tutto taroccato, campionato è tutto taroccato, dice qualcuno. Io non ci credo, non vedo l'uomo nero dietro. Ma non vedo l'uomo nero. In questo caso non vedo il disegno perverso dietro a questa stagione. Invece, Pier, ovviamente facciamo due chiacchiere di ciclismo, anche perché sono un po' preoccupato per l'allarme lanciato. Ho visto anche oggi da Repubblica, pagina 53. Le classiche italiane che scompaiono, nomi che abbiamo sentito fin da quando eravamo bambini, come il Giro del Lazio, che si correva dal 1933, cancellato dal calendario internazionale, il Gran Premio di Camaiore, che si correva ininterrottamente dal 49, il Trofeo Merinda dal 92, il Giro dell'Appennino, che era stato fermato solo dalla Seconda Guerra Mondiale nella sua storia. Corse cancellate, non hanno più appeal, non vendono probabilmente, non sono appetibili per gli investitori, oppure cosa? Oppure la crisi bellezza, perché la crisi porta anche questo. Logicamente fanno fatica tutti, si fa fatica a reperire soldi anche per grandi eventi, quindi come il Giro d'Italia, che è il fiore all'occhiello delle manifestazioni ciclistiche nazionali e internazionali. È logico che soffrano anche quelle corse che vengono considerate oggi, in un calendario mondializzato, regionali, con nessuna offesa, però è così. D'altra parte ci sono corse, ci sono zone che rispondono meglio, ma addirittura se tu pensi il Veneto, che ciclisticamente è fertile come poche regioni, come la Toscana, al pari della Lombardia, e non c'è più il Giro del Veneto da alcuni anni. Il Giro del Lazio, Roma ha la testa nel pallone, nel senso buono, perché giustamente ognuno ha le sue passioni, la bicicletta probabilmente non incontra queste attenzioni, ma devo dire che quello che sorprende è anche data dall'amministrazione, perché ad esempio Londra, l'Inghilterra, gli Stati Uniti incentivano, hanno usato il Tour de France, hanno usato le Olimpiadi per proprio forse sono solo questioni di mercato, no Pier? Il Tour de France è un prodotto che si vende da solo in tutto il mondo e allora lì si opera come... Sì, però ci vogliono anche degli investimenti e anche delle attenzioni. La Francia ci crede, ci ha sempre creduto, io ho sempre sostenuto che la differenza tra Tour de France e Giro d'Italia non è data sotto l'aspetto tecnico, è dato solo che dietro il Tour c'è una nazione, dietro il Giro d'Italia bravissimi, ma c'è un'organizzazione, non c'è un paese, non c'è un ministero, purtroppo non è così. E per, nonostante il Tour de France abbia un organizzatore privato che è l'ASO, privato esattamente come RCS Sport, però l'ASO è aiutata nel vero senso della parola da una nazione che percepisce, capisce, e non glielo devi neanche più spiegare, che ne ha ritorno e benefici, quindi è giusto facilitare il lavoro di questa azienda privata. Invece il Giro d'Italia sembra patrimonio del ciclismo, dei ciclisti e della RCS. Non è così. Il Giro d'Italia è un fatto culturale, molto più culturale di tante altre cose. Ma sport, questo, su questo rispetto, non può pioverci una goccia d'acqua su questa verità. Quindi il discorso del Lazio piuttosto che il Gran Premio del Campione del Maiore, piuttosto che il Trofeo Melinda, che poi in realtà sì, non si correrà più il Trofeo Melinda, ma la Melinda appoggerà il Giro del Trentino, si sono messi assieme per comunque fare un grande evento sportivo di una settimana, però è data da una crisi e anche da alcune amministrazioni che forse hanno difficoltà a riasfaltare le strade. Il ciclismo serviva anche per quello, tra le altre cose. Era un buon pretesto, no? Per farsi dare due soldi, stanziare due soldi e poi anche rientrare, perché rientravi dalla spesa economica con un ritorno d'immagine. Oggi però le difficoltà sono tante e probabilmente alcuni anche amministratori faticano a credere, a capire che è un aiuto anche per la mobilità, è una nuova cultura di intendere la viabilità delle nostre città. Ribadisco, stavo spiegando prima che Londra non ha solo ospitato il Tour de France, ha organizzato le Olimpiadi e la gara di ciclismo, l'hanno fatto proprio davanti a Buckingham Palace per una questione solo sportiva, no? Era un messaggio importante di viabilità. Oggi c'è una cultura nuova dell'utilizzo della bicicletta nei paesi, sia in nei paesi anglosassoni, sicuro, non da oggi. Pier, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi parliamo ancora un attimo. Come, cosa provate, cosa sentite di fronte al fatto di dover commentare il campionato più taroccato del mondo? Convocati. Tanto Piero Augusto Stagi, il Tour de France, che invece è un'azienda che funziona a meraviglia, apre nuovi orizzonti come la Premier League inglese, prima squadra africana al Tour, la vedremo nella prossima edizione. Sì, anche se in realtà c'era già stata una formazione africana, proprio sudafricana, come la MGN Kubeka, che era stata la Barlow World, diretta però quegli anni da Claudio Corti, team manager italiano, società di gestione italiana, sponsor appunto sudafricano. E tra l'altro in quella squadra, curiosità, portò nel mondo del ciclismo e fece conoscere un nuovo nome che sarebbe poi diventato un gran bel nome, perché la Barlow World di Claudio Corti portò al ciclismo Chris Froome, quindi non un corridore, un frillo qualunque. Uno che, esatto, un corridore che inizialmente fece molto fatica, poi pian piano cominciò a capire come si faceva il ciclismo e oggi uno dei corridori più forti del panorama ciclistico mondiale ed è una punta di diamante del Team Sky. Quindi in realtà la differenza, certo, qualche anno fa la Barlow World andò al Tour come sponsor, solo come sponsor sudafricano, quest'anno a tutti gli effetti c'è un team sudafricano con matrice sudafricana. Si vogliono aprire nuovi mercati? Assolutamente sì, ormai come stavo dicendo prima la difficoltà del ciclismo e la moria di tante corse, in modo particolare quelle europee, ma non solo italiane ma anche francesi, spagnole e belga, è dato dal fatto che c'è il grande ciclismo mondiale. Oggi si va a correre, tra una settimana, lunedì partirà il Tour de San Luis in Argentina, poi si comincerà a correre nell'Oman, si correrà in ogni angolo del mondo. E cambiano le logiche, si guarda anche all'Africa, al Sudafrica, ma non solo. Si stanno affacciando anche nuovi sponsor, la Cina è sempre più vicina e logicamente fanno fatica, come dicevamo prima, gare che sono stati magari non monumenti, ma comunque che hanno fatto la storia del ciclismo, punti di riferimento, esatto, certo, punti di riferimento. Però oggi c'è bisogno di altro, gli investitori poi fanno fatica e chiedono sempre di più. Certo, è difficile poter tenere vive delle corse che non hanno, fanno fatica gare come la Milano-Sanremo, per dire. Sì, no? Questo è chiaro. Senti, Pier Augusto, prima di salutarti, c'è il mercato anche nel ciclismo? C'è Cunego che dopo una vita passata in Lampre ha cambiato maglia, è andato alla Vinifantini, c'è Roche che va al Team Sky... E poi c'è la nuova madrina del Giro, Cristina Chiabotto. Sentiamo queste tre voci, poi commentiamo. Dopo tanti anni di militanza nella Lampre, ho sposato questo nuovo progetto, un'esperienza nuova, una squadra giovane. Ho voglia sicuramente di rimettermi in gioco, trovare nuovi stimoli per cercare di far bene ancora sicuramente questi due anni che ho firmato qui in questa nuova squadra. Questa volta era il momento e penso per loro e per me, sono cresciuto tanto in questi ultimi 3-4 anni e è venuto il momento che ho detto adesso è il momento, voglio vivere l'esperienza Sky. Il mio ruolo sarà chiaramente di aiutare Chris al tour e sulle le gare importanti quando lui ci sarà. Però dovrò anche trovare la mia opportunità in le gare dove lui non c'è. Cristina, grazie per aver accettato la nostra convocazione. Grazie a te, figurati. Che cosa significa essere per te la regina del Giro d'Italia 2015? Ma è un'emozione particolare, un po' perché diciamo che avendo girato tutta l'Italia, in questo caso voglio godermelo con uno sport molto bello che avvicina la gente, quindi poter essere la madrina del 2015 mi riempie di orgoglio. È una esperienza nuova per te, tu sei stata madrina più calcistica finora. Che cosa ti aspetti da questo viaggio lungo tutto lo stivale? Sì, diciamo che ormai sono una madrina sportiva per eccellenza, mi toccherà far sport per forza per essere all'altezza. Mi aspetto forti emozioni, io sarò presente appunto alla partenza il 9 maggio da Sanremo, dalla Liguria, e l'arrivo il 31 maggio a Milano, quindi mi godrò il Giro d'Italia proprio da vicino, è un'emozione grande. E poi vabbè, in bocca al lupo va a tutti ovviamente, perché è uno di quegli sport che oggi è ancora popolare e permette chiunque di poterlo abbracciare. E questa è una verità sacrosanta detta da Cristina Chiabotto con Giorgio De Luca. Senti, invece, Pier Augusto, per chiudere con Cunego, dopo tanti anni alla Lampre, quindi una squadra, non so, la Juventus, l'Inter, metti tu un paragone calcistico, è un po' come passare al Bologna? No, come passare all'Udinese. Come passare all'Udinese. Una squadra di giovani, un progetto ambizioso, hanno grandissime potenzialità, perché la Vinifantina in Italia si chiama Nippo, la Nippo è una multinazionale giapponese che ha delle potenzialità, ci dico solo che c'ha 55.000 dipendenti e costruiscono aeroporti e velodromi in tutto il mondo. Aeroporti e velodromi sono la loro specialità. Ma quindi per Cunego giapponese... non è una diminuzio? Non è un lasciare così la carriera? No, dobbiamo essere... No, è sicuramente una diminuzione, questo è logico, è come quando Roberto Baggio è andato poi a giocare col Brescia, con tutto il rispetto per il Brescia, però può trovare una nuova dimensione, aiutare tanti ragazzini interessanti che ci sono in questo team a maturare e a crescere, e anche a ritrovare quell'entusiasmo, quella leggerezza che Damiano nelle ultime stagioni ha perso. Probabilmente lui ha sofferto tantissimo il fatto, come tutti, essendo un vincente, far fatica di vincere, ed è caduto in quel stato un po' di depressione che colpisce spesso gli atleti vincenti. Adesso ha trovato un ambiente nuovo dove gli chiedono sostanzialmente: fai da chioccia, fai capire come si fa il corridore, quello che viene viene, quindi è il modo migliore per rimettersi in gioco. E credo che comunque lui, essendo un puledro di razza, e quando si mette il numero, come tantissimi di lui si mette il numero sulla schiena, hanno il gusto di ritrovare, riprovare a vincere, potrebbe ritrovare la via maestra per riportare a casa qualche buona soddisfazione. Grazie Pier, un abbraccio. Grazie a te Carlo. Ciao Pier Augusto Stagi. Ruggero da Torino e poi chiudiamo. Buongiorno. Buonasera dottor Carlo, io sono tifoso del Toro, quindi non lo immagino questo godetto. Senta, ma lei è arrabbiato come una bestia con Cairo, come tanti dei suoi colleghi, oppure no? Ma io sono arrabbiato, però voglio fare proprio una considerazione di questo tipo. Secondo me il Toro comunque non ha bisogno della punta, si parla sempre solo della punta. Voi per scherzo avete messo Cassano un sacco di volte, però abbiamo bisogno del Cassano, secondo me. No, non sono d'accordo. Uno che mette la palla per Quagliarella, perché se no... Quagliarello non può tornare indietro, Quagliarello chi interessa, attenzione, può tornare indietro a prendere la palla. Guardi ieri sera ne ha bisogno un paio. Allora facciamo che ne ha bisogno un paio, Ruggero, perché bene, comunque uno che la butta dentro ci vuole, non è bene, poi una considerazione, una riflessione per i napoletani e per i romanisti che dicono stanno un po' sulle balle con queste lamentele continue, anche se sono contro la Juve, quindi gol. Perché non se la prendono allo stesso modo con le loro punte che hanno mangiato un sacco di gol e si sono mangiati un sacco di gol nei confronti con la Juve? E perché, visto che dall'80 che i giocatori si vendono le partite, non vanno a pensare che i Zapata piuttosto che i Lai, come cacchio si chiama quello della Roma, Laic, quello che è? Laic. Bravo, quello lì. Amsic si sono venduti la partita. No, allora, come pensano che l'arbitro si vende la partita? Pensino che quello magari. No, allora sulla prima considerazione la seguo fino in fondo totalmente, sulla la seconda mi sembra un po' scivolosa, quindi su quella la lascio andare avanti da solo, perché mi sembra veramente scivolosa e fuorviante, se mi permette. Allora chiudiamo qui, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ma domani torniamo, venerdì di tutti convocati, imperdibile, dopo il GR delle 14. Ciao. Così. Io chiamo da Trani, provincia di Bari. Provincia di Bari. Trani, provincia di Bari. Sì,